Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocuis e separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, caro Oscar. Allora, è venerdì. È venerdì. Lo so, è venerdì. Giorno ti piace. C'è anche sabato. Urliamolo insieme, Oscar. C'è anche sabato. Questa è una sorpresa che ti abbiamo fatto. Non era contentissimo questo ascoltatore. No, c'è anche sabato. Vabbè, magari per alcuni sarà la Coppa dei Campioni. Sì, ieri sono andato a vederla, da lontano. Come da lontano? Per fare la foto, è esposta in Duomo. Io ho fatto la foto un po' da vicino perché posso. Quelli della Juve da lontanissimo facevano la foto da chilometri, perché loro la vedono lontanissima la Coppa dei Campioni. Va bene, cioè, c'era un velo abbastanza evidente di polemica. Io potevo, avendo 27, farla da vicino. Da vicino. Sì. Dei gironi di avvicinamento per numero di coppe. Esatto. Va bene, ma l'anno prossimo sarà della Juve, non temere. Sicuramente. Allora, su queste battute iniziali andiamo ai santi del giorno. Oggi è Sant'Agostino, ma non Sant'Agostino di Ippona. Sant'Agostino di Canterbury, c'è il primate d'Inghilterra del VII secolo. C'è un santo fantastico, perché ne ignoravo l'esistenza, perché pensa che si chiama Atanasio Bazzecucchetta. Bazzecucchetta. Come? Lo so, perché è un santo africano. Bazzecucchetta, con tutto con le K. E quindi sì. Saluti a chi si chiama Atanasio Bazzecucchetta, francamente. Poi è Sant'Eutropio di Orange, San Gausberto. Poi c'è un Gonza Gonzaga, che sembra il nome di un cartone animato, ma invece è un Gonza Gonzaga, invece è un santo anche lui. Poi restituto e restituta, libero. E c'è un altro Secondino Martire. Ho scoperto che i secondini abbondano nel calendario liturgico, devo dire la verità. Magari si chiamava Secondino anche quel vigile urbano che ha pensato di non avere niente di meglio da fare che elevare una multa al direttore degli Uffizi di Firenze, che pensate aveva avuto l'ottima idea di diffondere con gli altoparlanti fuori a chi vuole entrare, attenzione ai bagarini. E invece lo hanno multato per collocazione abusiva di mezzi pubblicitari in strada. Questa cosa l'ho trovata incredibile anch'io. Pazzesco. Il direttore degli Uffizi, pazzesco, che tra l'altro dice oggi pagherò la multa di persona per credo 400 euro. Sì, cioè, sapete quegli annunci, evitate i bagarini? Ma io ero a Roma sabato scorso, c'era anche per il Colosseo, prendete solo i biglietti ufficiali, mi sembra una cosa giusta. E invece è stato multato per questo annuncio. Capito? Ma perché? No, perché questo è un paese singolare dove chi si mette fuori seggi il giorno delle primarie del PD e dare i voti a chi entra, una collocazione più o meno analoga a questa, cioè chi fa il bagarinaggio invece per fare, quelli lo candidano. Sì. Mentre invece se il direttore tedesco del Museo degli Uffizi avvisa, ragazzi, non date i soldi ai clandestini, lo multano. Questa lo è l'Italia, la legalità all'italiana. Esatto, a proposito di legalità, no, non di legalità, ma di modo di comportarsi, tra poco vi diremo, anzi diciamo subito il tema di cui parliamo oggi, che è una bella provocazione, apparsa sul Washington Post. Sì, che ha ripreso un editoriale, un scritto sul Federalist, che è una rivista online che di grandissima tradizione nel dibattito politico pubblico civile americano, e c'è una vecchia discussione, questa vecchia discussione è incardinata su un tema, attenzione cari ascoltatori, non partite in quarta. No, esatto, il tema è questo: devono votare anche gli ignoranti? Sentiamo già che vi state arrabbiando. Un rombo in arrivo. No, il tema è quello del suffragio universale, e questo polemista però su Washington Post ha lanciato questo tema: ma perché devono votare proprio tutti? Perché su temi fondamentali per la vita democratica devono votare anche persone che non sanno magari neanche che cos'è il Senato, e quindi perché non sottoponi a un test, per così dire. Si fanno i test per guidare, no? Ci vogliono le patenti, le abilitazioni, eccetera. Perché? perché con quelle attività esiste un rischio pubblico, no? È chiaro che se guidate senza patente, senza conoscere le regole, potete provocare situazioni di rischio, pericolo, incidenti, vittime. Ma la stessa ragione è un voto sconsiderato da parte di chi non sappia nulla di come funziona la vita pubblica, che può portare dei paesi a scelte terribili. Guarda che qua già partiranno le accuse: siete elitari, volete il voto per censo, volete tornare indietro di tre secoli, per censo, volete per conoscenza, cioè il test, al test non può sapere domande prima, perché questa sarebbe, però al test ci sarebbero alcune domandine, altrimenti no, cioè, altrimenti non voti. Poi bisogna capire chi deve fare questo attenzione, test, non dipende affatto dai soldi, però è un discrimine, cioè abbiamo combattuto tanto per ottenere il suffragio universale e qualcuno dice che non è un bene, è un lusso che non ci possiamo permettere, è un lusso. Sui giornali di oggi, cari ascoltatori, per essere chiari, questo viene sollevato, ma anche su Washington Post è così, anche sull'intervento di David Harsany del Federalist è così. Perché? Perché Trump fa paura ormai. Trump ha vinto il numero di delegati, è ufficialmente il candidato repubblicano. Ieri al G7 di Tokyo il braccio destro Juncker dice: ah, pensate la prossima volta che ci incontriamo al G7 ci potrebbe essere Trump da una parte, la Le Pen, Grillo per l'Italia, horror. Allora qui in realtà è la per la prima volta, perdonami, la sinistra che pone il problema, perché dice: qui attenzione, arrivano quelli di destra, populisti. Cioè sì, perché tutto nasce dalla questione di Trump, dicendo la gran parte dell'elettorato di Trump, secondo alcuni americani, è un po' un elettorato, diciamo, non perfettamente informato sui dossier internazionali, su quello che accade. Mentre per tanto tempo era tradizionalmente considerata una posizione di destra tradizionalista conservatrice quella di dire suffragio universale, adesso è la sinistra, perché loro lo volevano sì per censo, ecco, perché erano tradizionalmente, hai ragione tu, no? Erano quelli che continuavano la vecchia tradizione dell'Ottocento, quando quello con Costituzione Autoria essere arrivati ai primi voti per censo e sicuramente non alle donne, ecco, tema su cui bisogna riflettere, perché anche sto scherzando. Sì, ma ovviamente io ti seguivo nello scherzo. Mio Dio. Sai che sennò... No, ci siamo interrotti entrambi con le mannaie delle rispettive mogli. Però questa volta il tema viene sollevato in chiave tra virgolette progressista, e questo me lo rende, per così dire, paradossalmente e sulfuramente molto più interessante. Allora a sinistra si inizia a pensare, come per tanto tempo si è pensato in Italia: votate Berlusconi. Ah, siete afflitti da una pericolosa malattia degenerativa. Alla fine si arriva a dire: votate Trump, ma allora bisogna sospendervi il diritto. Ma certo, comunque 800 24 00 24, ovviamente se volete intervenire sui temi che abbiamo affrontato anche ieri, le questioni per esempio degli abusivismi, ieri c'erano degli ascoltatori che invocavano eccezioni, va benissimo. Io prima di andare agli ascoltatori però vorrei un attimo scrutare Oscar Giannino, perché si è presentato qui in ragazzi, studio. Queste sono cose serie. Io l'ho letto in rassegna stampa e non ci volevo credere, ma il codice. Fammi vedere che scarpe il porti. Codice. Gli il occhiali, codice. Se gli occhiali sono a posto, posso la dirvi, barba è a posto. Posso dirvi che Milan viola per l'altezza dei suoi tacchi il codice Rai. No, io violo il codice Rai, o meglio il codice Daria Bignardi, esatto, che su Rai 3 racconta il Messaggero oggi, ha dato il codice per le donne, come si devono presentare in video. Io lo violo per le borse che porto sotto gli occhi, ma cioè non sono borse. Sono borse enormi, che quindi è fatte per rendere molto evidente quello che le porto. Sono griffate. No, Daria Bignardi ha detto le donne a Rai 3. Ha convocato truccatrici, costumiste, niente tubino nero, cara mia, niente tacco 12, caro mio. La camicetta al limite deve essere scollata per far prendere aria al collo e non un bottone di più. Poco trucco. È la sinistra rigorista. È la sinistra rigorista, ma però c'è un canone, cioè Daria Bignardi la incarna davvero. Eh no, certo. E il problema è che lo impone come stile di... appunto, questo. Questo io lo trovo più... ma discutibile, non voglio dire censurabile, no, ma discutibile. Discutibile. Discutibile, cioè, sì. Torniamo alla TV... Quella che è in chiave di sinistra, che misura la lunghezza delle gonne, la versione della vecchia DC dei mutandoni alle Kessler, questo punto. Sì, un po' sì, no? Un po' sì. E ripropone anche qui, attenzione, una chiave estetica che noi l'abbiamo vista per 20 anni. La solita storia che nella televisione di Berlusconi c'erano le donnine scosciate e le tette strizzate, no, non è che me la invento io, sì. Allora, cosa alla quale però, perdonami, la RAI ha dato tutta la mano possibile, perché la RAI anche lei non si è fatta, non ci ha risparmiato nulla da questo punto di vista, e adesso si vorrebbe ripristinare invece questo criterio di soberrima monacale austerità rigorosa di sinistra, tutti con ritrattino, Palmiro Togliatti a destra e un cero verso Berlinguer a sinistra. Però non lo so, la TV pubblica e la TV in generale spesso è criticata anche perché si dice all'estero alcuni messaggi, per esempio l'immagine della donna come passa la TV italiana, per all'estero carità, non questo, è accettata, questo è un problema non generale, è accettata, certo. E allora Daria Mignardi dice basta, copritevi, care conduttrici, copritevi, sì, però, copritevi no, un po' no, di più, truccatevi un po' di conduttrice, meno. Perché qui si va ai tacco, eccetera, eccetera. Questo è un codice per vestirsi sì, integralmente, certo. Perché non è che la conduttrice... conduce con anche le ospiti, la scarpa, cioè su Rai 3 non ci si presenta col tacco 12, esatto, anche questa cosa, perché bisogna dire come vestirsi e questa prescrittività non ti piace, ma no, e io la considero una questione distintiva di come loro impostano la loro vita. C'è poco da fare, dare gli ordini top down e rientra nel codice del rigorismo di sinistra, perché è l'omologazione, capisci? È una cosa che è contraria a chi pensa che la libertà è capace da sola di porsi dei limiti, no? Non penso che nessuna conduttrice, qualcuna può avere anche successo su TG2 recentemente, infatti, no? Vedi, E c'erano però quell'abito di latex un po' così, non è che fosse porno, non diciamo sciocchezze, però immediatamente capisci, arriva la direttrice rigorosa di sinistra non piace, e dice mettiti piace. Il saio. Non è proprio il saio, però comunque ci chiama Cristian da Pisa, sentiamo Cristian che dice buongiorno. Salve, buongiorno. A parte il discorso sulle complimenti anche per la trasmissione, il discorso del vestito mi sembra, come dalle nostre parti si dice, mettere la cravatta al maiale. Nel senso e che... non stiamo dando del maiale a nessuno. No, parliamo per caso della RAI e del servizio pubblico. Infatti, perché è tutta una cosa di facciata. Poi per quello che riguarda limitare il persone più o meno, io la penso in maniera completamente diversa, è anche molto semplice. Allora, io penso che la politica e tutto quello che riguarda il mondo politico nei confronti dei cittadini deve essere comprensibile per quello che è il livello di studio della scuola dell'obbligo, che è di terza media. Perché deve essere non tanto escludere le persone ignoranti, ma cercare di semplificare, di far capire alle persone che hanno un livello di studio di terza media quello che succede nel mondo della politica. Questo dal punto di vista della comunicazione politica, però se invece ci sono i politici che parlano con arzigogoli incomprensibili, non è che si può obbligare a fare comunicazione politica. Cioè lei capisce che abbiamo avuto per 50 anni De Mida che non si capiva un beneamato bivero di quello che diceva, quindi ma perché forse non c'era nessuno che lo criticava per questo. È vero. Però Cristian, il tema è un pochino diverso, cioè la ringraziamo tanto per la segnalazione, il tema è un pochino diverso, cioè se limitare il voto a chi non... Lei invece la ribalta, la comunicazione politica dovrebbe essere chiara, non dovrebbe so essere se per legge. Semplificata, sì, per così per dire. Legge. Paolo ci chiama da Crema, buongiorno Paolo. Sì, buongiorno. Fondo è come il referendum, basta un sì, più semplice di così, come la campagna del referendum del PD, basta un sì, chi volete sapere, mica approfondiamo. Paolo, buongiorno. Buongiorno, io adesso questa notizia del suffragio universale... Sto facendo la ola in macchina, per me è una cosa addirittura, sì, perché penso che un certo tipo di politica probabilmente sparirebbe se veramente si votasse in base alla cultura che una persona ha a livello politico, perché molti politici sfruttano la nostra ignoranza per farsi strada politica, insomma. Sì, quindi... diciamo, questa più che una notizia è una provocazione. È una vogliamo tranquillizzare tutto, il suffragio universale non verrà toccato. Su questo non avevo dubbi. Vabbè, speriamo. Lei spera perché dice molti politici proprio vivacchiano grazie all'ignoranza delle persone. Ma no, la coltivano. La coltivano, certo. Cioè, anche perché è il loro elettorato. Ammettiamolo, anche i nuovi media i social e il tempo reale della pluralità delle fonti in rete coltiva premia l'estremismo, gli urlatori, mica gli articoli di ragionamento con i numeri. La politica lo sa, è il cortocircuito, è questo, è la grande leva moltiplicatore moltiplicatrice del populismo, è anche questo, dipende anche da noi che facciamo informazione così. Massimo ci chiama da Roma. Sì, buongiorno. A tutti e due. Io volevo dire questo qui, ma più che il polemista americano dire se bisogna fare un test all'ignorante che va a votare, ma perché non facciamo il test all'ignorante che viene votato e si candida? Ah, sul diritto passivo all'elettorato, giusto? Beh, qui va qualcuno a rappresentarmi, dobbiamo fargli un test, insomma, secondo me. Non è dall'altra parte che va vista la medaglia. Quando quelli delle Iene si sono messi fuori dal Parlamento a fare i quiz ai parlamentari, ne sono uscite di tutti i colori. Sulla Consob, discorso da fare. Poi volevo, e poi vi saluto perché lascio spazio agli altri, mi voglio riallacciare leggermente a quello che c'era stato detto ieri sul fatto che i giornalisti subiscano un terzo in più della pena sulla diffamazione ai giudici e ai politici. Io non so, ma penso che l'abbiate saputo, che la Gabbanelli, la giornalista di Report di Rai 3, ha vinto la causa, non so, per diffamazione, perché cosa con l'onorevole, adesso mi sfugge il nome, l'ex rappresentante della regione Lombardia. Formigoni. Bravissimo, grazie, però non intende pagare. Sapevate che gli stipendi, comunque sia tutte le cose degli onorevoli, non sono pignorabili? Quindi, sono impignorabili, questo è vero. È vero. Tutto qua, chiedo scusa se... Lei non fa altro che confermare, ricordare che le conferme alla regola per la quale loro normano e si attribuiscono un'eccezione, una superiorità rispetto ai comuni cittadini sono tante, e per questo secondo me è giusto protestare, non perché siano i giornalisti che devono pagare di più. No, abbiamo detto appunto che non è una cosa di difesa dei giornalisti, ma una questione di tutela di tutti, cioè al limite mettete la stessa pena se il giornalista querela, ma è il primo che passa. Il nostro compito è dire che verso i politici il nostro compito è essere il siero, loro sono i serpenti velenosi, noi il siero. Senti qua le Iene, ti ricordi l'ignoranza dei Telecom politici? Mastella ordina controlli. Guido Rossi lavora al piano di assetto, domani andrà alla Consob. La Consob che la cos'è? Che cos'è la Consob? La Consob è... Non lo so che cos'è la Consob. Non lo dica so lei che cos'è, che la, Consob. Cos'è la Consob. Mai sentito la Consob? L'abbiamo sentita sempre. La Gardini, la Gardini. Che si occupa, è un organismo che si occupa. Che si occupa? Si occupa. Non sa che cos'è la Consob? Fantastica la Gardini. Non sappiamo cos'è la Consob. Me lo dica? Con fare inquisitorio, no, Gardini. Me lo dica, lei, dai, me lo dica, è venuta qui col ditino puntato, me lo dica. Tenta di rivoltare per non dai, vabbè, la dopo la pubblicità avremo ospite il professor Marco Bassani, che insegna dottrine politiche che alla Statale di Milano. Una persona straordinaria, dovresti vedere che lezioni fa in università. Ecco, ti sei schierato però perché la sua posizione è un po' provocatoria. Il professor Bassani dal è punto una di persona vista. Straordinaria, sì. Esatto, e quindi sarà non ha paura di idee taglienti. Per magari così dire. Di dire che il suffragio universale è una... Beep! Tra poco. Allora, siamo qua, caro Oscar, alle 8:40 minuti. Io devo dire, guarda, voi vi perdete, ma c'è il tubino nero che è contro la dottrina Bignardi e Milan addosso. C'è un tubino nero. Oggi ho il tubino io nero. Io vi segnalo questo. Potete dopo faccio una foto in tubino nero, la mettiamo non su non ci Facebook. Sono tracce di bianco per evitare una divisa bianco-nera che non sarebbe compatibile. Allora, ci chiama Francesco da Roma. Buongiorno. Buongiorno, io sono un candidato del municipio 12 di Roma, della Lega Noi con Salvini. Sono Antonelli. Sì. E volevo esprimere il mio dissenso per quanto riguarda la generalizzazione dei candidati che non sanno come parlare, non sanno le leggi e non sanno alcune cose. Non abbiamo detto mica tutti. Quando io ho fatto la scuola di formazione politica di Salvini, sempre un anno, e dopo le elezioni continuo ancora a fare la scuola di formazione politica l'1 e 2 luglio con altre stage. E la scuola, ecco, ma che scuola è la scuola di formazione politica? La scuola di formazione politica è una scuola che è iniziata e lo farà anche quest'anno a ottobre, con lo scopo di divulgare le informazioni, di informare i politici, dalle tasse all'euro, dalle leggi. Ah beh, come le vecchie scuole. Come nei tempi c'era la scuola delle frattocchie, del PC. Giustissimo, giustissimo. Vabbè, quindi poi... lei rivendica il fatto, insomma, dice ho studiato e sono preparato. Ma ci dica, sì. Francesco, qui la domanda è: non è che abbiamo generalizzato, abbiamo detto, ma sarebbe giusto un test? Questo è il punto, cioè il test, lei si sottoporrebbe al test, cioè l'idea che uno anche per l'esercizio dell'elettorato passivo, cioè per candidarsi ci vogliono delle, devi poter rispondere a 5-6 domande, se non risponde no. Io sono d'accordo al test, perché magari molta gente non sa neanche delle leggi che riguardano, che ne so, l'ambito locale, le leggi che riguardano il comune, come comportarsi in un'assemblea capitolina oppure come comportarsi in un'assemblea municipale, e io sarei disposto a queste 4-5 domande per i candidati. Poi altrimenti bisogna vedere cosa chiedere, perché io non so se bisogna vedere certo cosa chiedere. Magari gli chiedo, lei lo sa, ci sa dire quanti sono i dipendenti dell'ATAC? Dipendenti dell'ATAC non lo so che ne sono 11.008 per dire, so che per sono dire. Troppi sono e, troppi e che, sì, bisogna, e che bisogna bisogna parlarli da qualche altra parte, bisogna fare tante cose. Ma già troppi è una risposta un po' vaga, sì. Insomma. Vabbè, comunque, insomma, lei, Francesco, dice pronto a sottoporsi al test. Attenzione. E questo è già un passo avanti. Allora, salutiamo il professor Marco Bassani, che insegna storia delle dottrine politiche a Milano. Buongiorno, professor Bassani, in università, ovviamente. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Complimenti per la trasmissione, volevo dirlo, non l'ho mai detto. È bellissimo, sono quelle cose che togliermi. Emozioni che uno... con l'ironia frontale. Sono quelle emozioni che uno si deve togliere una volta nella vita. Adesso guarda, io ti avviso, Ale, guarda che il professor Bassani inizia a fare le domande a noi. Ma lo so, infatti non risponderemo a una sola domanda. Appello al fatto. Dirà, prima dell'elettorato cacciamo il conduttore ignorante. Questo è il suo obiettivo, io ti ho avvisato. Ma io sto passando i micenei con mio figlio, quindi non potrei rispondere su questo. Lo so, non ti resta che questo, vista la stagione del Milan, allora, studiare Menelao. Caro professor Bassani, no, veniamo prima che lei ci interroghi alla questione base. Il devono votare anche gli ignoranti, lanciato come provocazione, rilanciato, è un tema vecchio, insomma non è nuovo, ma rilanciato sul Washington Post, è una provocazione bella e buona o c'è una base di verità? No, io credo che sia veramente una abbastanza di una pochezza incredibile, l'ho letto questo qui di Arsani, parla della pochezza della campagna elettorale americana, intanto se non fosse uscito fuori Trump non avrebbe mai tirato ovviamente fuori neanche l'argomento. Non ci possiamo fidare di voi, caro elettore, il problema sei tu, ma chi diavolo sei? In realtà questa è la puzza sotto il naso della sinistra radicale, per cui sempre la sinistra ha odiato il mercato, perché il mercato dà una chance all'uomo comune di emergere, a quello che andava male a scuola e così via. Io in realtà la mia posizione è totalmente diversa, cioè oggi ci troviamo in un momento in cui l'America, la società di maggiore successo che la storia americana, la storia dell'umanità abbia mai visto, si presenta effettivamente una scelta fra la Clinton e Trump che lascia molto a desiderare, ma questo è stato prodotto delle primarie americane. Alle primarie americane votano elettori che sono assolutamente istruiti, non solo sono istruiti, ma sono dei fanatici del sistema politico. Sì. Quindi il problema è del tutto evidentemente la politica, non la società. Chiaro che una popolazione oggi enormemente più istruita di 50 anni fa o anche 30 anni fa, in America la metà della popolazione va all'università, e quindi sono tassi di scolarizzazione inimmaginabili 50 anni fa. Prima c'erano Adenauer, Kennedy, Reagan, De Gasperi, tanto per, e oggi Obama, Merkel, Renzi, e il futuro ci presenterà qualcosa di peggio. Il voto multiplo esisteva in Inghilterra. In Inghilterra fino al 1948 chi era andato a Oxford e Cambridge aveva due voti rispetto agli altri. Questa però è una cosa a mio avviso intollerabile, anche perché i più colti sono politicamente i peggiori. Eccolo lì, i più colti sono politicamente peggiori. Quindi quando in questo articolo Arsani dice mi accuserete di ottuso elitismo, lei dice e anche ne abbiamo ragione, insomma è un ottuso. Ma è vero, no, ma è l'elitismo che ha prodotto il disastro politico in cui ci troviamo in tutto l'Occidente, quell'enorme comunità politica che va da San Francisco a Trieste. È proprio l'elitismo, cioè il fatto che le élite siano riuscite a convincere, a togliere il buon senso alla gente umile. Voi chiedete, fate le domande in maniera chiara e vi assicuro che se volete una risposta di buon senso dovete andare a livelli sempre più bassi di istruzione. Io che per professione passo il mio tempo con gli intellettuali, vi assicuro che quando parlano di politica sembrano o Pol Pot o Goebbels o che, ma non dicono delle cose totalmente folli. Se volete un minimo di buon senso, andate dai ceti, esatto. Però professore, qui la questione su cui si dibatte è se tutte le persone per il suffragio universale debbano decidere su argomenti anche delicati che non padroneggiano, che non conoscono. Scusate, prima parlavate delle Iene, sì. C'era gente che pensava che il Darfur fossero delle caramelle, come no? Che hanno fatto vedere. Quindi il problema è la classe politica che eleggiamo. Quindi allora dovremmo fare avere una popolazione loro, istruita per eleggere una classe politica istruita che poi creerà dei disastri. E quanta cultura e sapienza. È invece ideale platonico, più o meno. Sì. Sì, ma se i bolscevichi, non esiste un gruppo di persone più istruite del partito, del gruppo di bolscevichi intorno a Lenin, hanno fatto del bene alla Russia, all'umanità, secondo me no. Quindi in realtà, oppure c'è un paradosso, cioè muoversi fa molto bene, però gli atleti professionisti hanno aspettative di vita minori degli altri. Quindi evidentemente non bisogna esagerare nella conoscenza eccessiva, ma poi cosa dovrebbero conoscere? Lo diceva anche Andreotti, tutti i miei amici che hanno fatto sport sono morti. Sì, lui che è quello lui che gli aveva faceva. Detto che non sarebbe arrivato a Natale. Sì, sì. Certo. Ma poi su che cosa bisogna istruirsi? Su come, sul sistema politico, tanto cielo, è meglio che la gente non lo sappia come funziona. Su come veramente vengono fatte le leggi? C'è qualcuno che dice chi conoscesse veramente come vengono fatte le leggi e le salsicce, da un lato non voterebbe più e dall'altro diventerebbe vegetariano. Che disillusione, mamma mia, professore, capito. Che disillusione. No, invece la mia è una fiducia nell'uomo comune liberato dalle élite che gli dicono cosa pensare e come votare. Noi abbiamo 835 miliardi di euro di spesa pubblica, il 56-57% del vero, non di quello che si inventa. Quindi di fatto siamo arrivati a questa situazione non certo grazie al buon senso dell'uomo comune, ma grazie a progetti che sono altamente sofisticati e intellettuali. Ma non li vedete anche gli intellettuali che vanno in televisione a parlare di politica? Sono un gruppo essenzialmente di invasati che parlano di alcun ragazzo giovane che dice stato etico italiano, insomma. Con formule anche bizzarre dell'Ottocento. Sì, quindi insomma, però Oscar, invece la questione dell'esame a chi si candida effettivamente questa sì, che poi bisogna capire chi fa l'esame, com'è l'esame, che tipo di domande ci sono. Io lo faccio volentieri. io so già che sarei terrorizzato. No, qualche domandina, per carità, un po' di nozionismo. E poi andiamo a vedere. Cioè, per esempio, ci faccio un esempio: che domanda farebbe una, quella base? Io mi voglio candidare in comune come consigliere comunale. Una cosa che ne so, al comune di Milano: sì, vuoi tagliare le spese, vuoi tagliare i dipendenti, vuoi licenziare? Questo è il programma. No, il programma: arrivi lì per fare che cosa? Sai cosa puoi fare? Se uno mi dice no, in realtà il comune, come consigliere comunale non posso fare nulla, lo lascerei candidare. Non voglio far nulla, non posso far nulla, non sapevo realistica della politica. Perfetto, non avevo capito dove volessi arrivare. Se dice io vado lì tanto non servirò a nulla, lo sì, e cambierò la situazione di tutta la nostra città. No, questo sì. Se invece viene va lì a dire beh, il gettone di presenza, capisce, il consigliere comunale, d'altronde non serve a nulla, non farà, allora questo sì. La politica è un fattore enorme di arricchimento della nostra società. In un periodo di crisi la politica, lei ha mai sentito di un suicidio di un politico? In questi lungo periodo, no? Talvolta quelle indagate. Talvolta sì, per vicende magari non economiche. Nel periodo di Tangentopoli, quando c'era un certo stigma sociale, oggi francamente... Guardi professore, ci chiama Francesco da Milano, chissà cosa ha da dirci. Sentiamo. Francesco, buongiorno. Sì. Buongiorno a tutti. Io volevo dare uno spunto di riflessione su un romanzo di fantascienza del 1959 che si chiama Fanteria dello spazio. Ne è stato fatto anche un film, ma non ricalca gli aspetti sociali che vengono dati. La cosa interessante a proposito del dibattito sul voto è questa: in quel romanzo lì, dove la Terra era attaccata dagli alieni, soltanto chi era disponibile a fare il servizio militare, quindi a mettere in gioco la propria vita per difendere la nazione, poteva poi andare a votare, quindi avere sicuramente una persona del genere, si diceva, era in grado di decidere nella maniera giusta per la propria nazione. Vabbè, in Italia urne vuote, viviamo, le aboliamo le elezioni. Esatto, armiamoci e partite, ma però Francesco, noi siamo in un tempo di pace, diciamo, tra abbiamo messo un paese che ci mette 4 anni a far tornare girone dall'India, no, secondo lei, cioè, esatto, è un paese che corrisponde alla sua fanteria nello spazio. Ma io non ho capito, Francesco, lei sposerebbe questo tipo di teoria? Allora, no, personalmente no, voleva essere soltanto uno stimolo a riflettere. Uno stimolo a riflettere, io comunque sono d'accordo anche col professor di prima, è assolutamente una baggianata l'idea di mettere un filtro, di selezionare chi può votare e chi può essere eletto in base a qualsiasi cosa. Ma il professore, con una vena ironica che spero sia arrivata a tutti, è convinto che in realtà sono gli intellettuali il peggior pericolo, perché la loro visione top down dall'alto, a totalmente sprezzante dell'individuo, è quello che poi crea nel Novecento i milioni di morti rossi e neri che abbiamo regalato alla storia del mondo. Ecco, questo vorrei che del professor Bassani fosse chiaro, che secondo me è verissimo. E che è, credo, emerso. Professor Bassani, abbiamo 30 secondi per chiudere, non so se la riflessione di Francesco ha suscitato. Secondo me è molto interessante, cioè effettivamente collegare questo romanzo di fantascienza che collegava l'idea quanto vuoi dare al tuo paese, quanto sei disposto a dare al tuo paese, e allora voti. E in realtà qui purtroppo si torna all'antico voto per censo, trasformare delle assemblee in gruppi di espropriazione permanente del resto della popolazione. Chi paga più tasse dovrebbe avere una voce in più. Lo so che è triste dirlo, attacca alcuni principi fondamentali del suffragio universale, che in realtà sono quelli che di votare sui soldi degli altri. E Hayek arriva a proporre anche che per il problema della giustizia intergenerazionale, perché la politica è troppo di breve raggio la sua decisione per il voto, e quindi mette tutto sulle spalle dei debiti, era giusto ogni tanto avere delle assemblee in cui fossero esclusi quelli che avevano più di un certo numero di anni e fossero invece solo i giovani che avessero l'elettorato passivo. Un altro tipo di provocazione, Ci dobbiamo fermare qui, caro Oscar. Tu domani torni, così come oggi pomeriggio, io torno, invece lunedì, eccetera eccetera, e soprattutto attento, niente tubino. Adesso tubino. Me lo tolgo e mi rimetto la camicia. Vabbè, ciao. C'è anche sabato, urliamolo insieme, Oscar. C'è anche sabato, c'è anche sabato.